Mezzogiorno di Simone Spezia. 5 Stelle per la candidatura Premier corre solamente Luigi Di Maio. Caso Orlandi, il Vaticano avrebbe pagato per farla allontanare. La Santa Sede dice il dossier è ridicolo. Manca ad un punto di svolta, ma il cammino resta lungo, secondo il ministro dell'Economia Padoan. Caso Consip, al via le audizioni al CSM che dovrà decidere sul trasferimento di Woodcock. Calcio, si ricomincia già domani sera con Bologna-Inter, Formula 1, la Ferrari riflette sul disastro di domenica. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 per i vostri sms, oggi siamo in diretta da Roma e abbiamo da qua qualche problema con WhatsApp e quindi non lo possiamo leggere, quindi i cari vecchi sms se volete interagire con noi, così come la diretta Facebook, potete anche seguirla appunto, la diretta video Facebook, e commentare là come sempre. In apertura ci occupiamo di politica perché a mezzogiorno era la scadenza per presentare le proprie candidature alla premiership per il Movimento 5 Stelle. Ebbene, la candidatura è unica. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, alle 12 è scaduto il termine per la presentazione e l'accettazione delle candidature alle primarie online del Movimento 5 Stelle in vista delle prossime elezioni politiche. Al momento l'unico candidato sembra essere Luigi Di Maio. Il vicepresidente della Camera, infatti, è l'unico che finora ha annunciato la sua discesa in campo. Ma c'è chi dice che dovrebbero essere in arrivo altre candidature di personaggi minori, mentre i big si tirano indietro. Il suo avversario Alessandro Di Battista ha comunicato via Facebook che non correrà alle primarie, e in silenzio da giorni Roberto Fico, che è il riferimento dell'ala degli ortodossi. C'è poi la candidatura di Roberta Lombardi alla Regione Lazio, e qui interviene la sindaca di Roma Virginia Raggi con una stoccata. Ricordiamo, lei aveva in passato avuto contrasti con la Lombardi e ha detto: è una candidatura come tante, sarà votata. Sulla linea politica invece interviene Carla Ruocco, che ribadisce: il Movimento 5 Stelle non fa alleanze. Intanto Beppe Grillo è giunto a Roma proprio per le primarie e per incontrare i vari leader. A te, Simone. Grazie dunque ad Elisabetta Fiorito, e vedremo appunto se nell'arco della giornata arriveranno notizie di altre candidature. Al centro della scena politica resta però il caso Consip. Vincenzo Miglietta, buongiorno. E sì, Simone, buongiorno. La vicenda dei presunti illeciti collegati agli appalti controllati dalla centrale acquisti della pubblica amministrazione arriva sia al Consiglio Superiore della Magistratura che a Piazzale Clodio. Nel primo caso, davanti ai membri del CSM, stanno intervenendo i procuratori aggiunti di Napoli, convocati sui conflitti sorti all'interno della procura sulle modalità di conduzione delle indagini da parte del PMR John Woodcock. Il vertice al tribunale vede invece i magistrati titolari del fascicolo su Consip esaminare le accuse ai carabinieri del procuratore di Modena Lucia Musti. Quest'ultima, lo ricordiamo, sui casi Consip e CPL Concordia, con fughe di notizie che hanno coinvolto il padre dell'ex premier Renzi, definì il maggiore Giampaolo Scafarto e il capitano ultimo. Ora il colonnello Sergio De Capri, all'epoca dei fatti comandante del NOE, due esagitati spregiudicati come presi da un delirio di onnipotenza. L'ufficiale dal canto suo dice basta alle gravissime accuse infondate mosse nei suoi confronti e si dice pronto ad un confronto pubblico. Anche l'arma dei carabinieri tuttavia dovrebbe aprire nelle prossime ore un'inchiesta interna proprio sul capitano ultimo e su alcuni membri del NOE. È tutto. E grazie dunque a Vincenzo Miglietta per questo aggiornamento, e visto che siamo sui temi della politica, c'è un tema che sta dividendo da settimane gli schieramenti politici e anche il Partito Democratico al suo interno. È quello della legge sulla cittadinanza, la nuova legge sulla cittadinanza. Ebbene, prende posizione anche il ministro Minniti. Abolire la Bossi-Fini, approvare lo Ius Soli, cancellare la parola emergenza. Minniti cambia casacca e da ministro della sicurezza inaugura la fase 2, dove la parola chiave è integrazione. Dopo aver contrastato con forza l'immigrazione clandestina e di fatto aver messo un freno alle partenze dalla Libia, D'Assisi, il ministro dell'interno, ha parlato a fianco a Monsignor Ravasi e ha detto che quando l'Italia dimostrerà di saper sconfiggere i trafficanti, dovremo abolire la Bossi-Fini e pensare a una gestione dei flussi legale. Dobbiamo cancellare la parola emergenza, ha detto, e a questo proposito ha ridimensionato l'allarme lanciato dal sindaco di Lampedusa, Martello, che aveva parlato di situazione non gestibile sull'isola. A Lampedusa, dice Minniti, non c'è nessuna emergenza. Ci sono 187 migranti, uno dei numeri più bassi della storia degli ultimi anni. Infine, il ministro dell'Interno ha lanciato un salvagente alla legge sulla cittadinanza che rischia di non arrivare mai a un'approvazione. Ius soli. Io penso che noi dobbiamo fare di tutto per approvarlo in questa legislatura. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo al caso di Emanuela Orlandi, che torna in primo piano per un documento del quale è incerta l'autenticità e che sta circolando in Vaticano. Ruota attorno a un misterioso dossier, il nuovo giallo che torna a far parlare del caso di Emanuela Orlandi. Il documento, pubblicato oggi dal sito del quotidiano Repubblica, riporta una serie di spese che sarebbero state sostenute dalla Santa Sede a partire dal 1983, anno della scomparsa della studentessa, ai tempi quindicenne, fino al 1997. Alcuni dei pagamenti lasciano intendere che la giovane sia stata ospitata in vari conventi in Italia e all'estero e ricoverata in alcune strutture sanitarie in Gran Bretagna. Verifiche sono in corso sull'autenticità del carteggio che sarebbe stato rubato nel marzo del 2014 nella cassaforte della Prefettura Vaticana e sarebbe poi riapparso in Vaticano in circostanze tutte da chiarire. Il portavoce della Santa Sede, Greg Burke, oggi ha definito falsa e ridicola la documentazione. Non l'ho mai vista e non ho mai ricevuto alcuna rendicontazione, assicura invece il cardinale Giovanni Battista Re, che risulta fra i destinatari del dossier. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Il ministro dell'economia Piercarlo Padoan interviene sul settore bancario. Siamo in linea con Alessandra Schepisi. Buongiorno Alessandra. Sì, buongiorno. Sul fronte bancario siamo sulla buona strada, un punto di svolta, anche se il cammino resta ancora lungo. Parole di sostanziale ottimismo, quelle del ministro per l'economia Piercarlo Padoan in occasione del convegno organizzato dalla Business School della LUIS, l'Italian Banking Conference 2017. Le sofferenze bancarie, ha spiegato il ministro, sono in forte riduzione, questo anche grazie agli interventi del governo. Ma sentiamo un passaggio. Anche grazie alle misure introdotte, lo stock di NPL si sta riducendo con intensità crescente, mentre la creazione di nuove sofferenze è ora prossima a livelli pre-crisi. Siamo sulla buona strada. Le misure di riforma e di intervento specifici hanno ridotto, in alcuni casi eliminato, le maggiori fonti di rischi potenziali. Il sistema finanziario italiano si trova ora a un punto. E Padoan ha poi parlato della necessità del completamento dell'Unione Bancaria Europea, aggiungendo che la transizione deve però avvenire in maniera ordinata e definita per evitare eventuali shock. E sulla salute del sistema bancario è intervenuto anche Ignazio Angeloni, membro del Consiglio di Vigilanza della BCE, d'accordo con Padoan sul fatto che ci sia stato un miglioramento dei crediti deteriorati, un salto netto, ma aggiunto non bisogna sedersi sugli allori. E dalla Luisa è tutto. Grazie dunque anche ad Alessandra Schepisi per questo aggiornamento. Ancora senza indagati, passiamo dunque alla cronaca italiana. L'inchiesta della Procura di Brescia aperta per omicidio colposo dopo la morte della bimba di 18 mesi, di un anno e mezzo, uccisa dai due pitbull di famiglia. La bambina, lo ricordiamo, era sola con il nonno mentre la madre era fuori, il padre in Germania per lavoro, da dove è rientrato nella notte. Nel 2009, lo ricorderete, entrò in vigore un'ordinanza del Ministero della Salute sulla gestione dei cani ritenuti potenzialmente pericolosi, di cui venne fatta una lista, ordinanza poi ritirata. Ma quella lista esiste ancora. Adriana Fracchia lo ha chiesto a Sabrina Giussani, veterinario e presidente di SISCA, Società Italiana di Scienze del Comportamento Animale, chiedendole anche appunto dettagli su che cosa succede in questi casi. È stata eliminata perché non aveva alcun senso. La pericolosità non può essere data dalla razza. Certo è che se io adotto un cane che pesa 50 o 60 kg come un molosso e non faccio un percorso educativo in modo tale da conoscere il mio cane, da far sì che il mio cane conosca il mondo e così via, il danno che può accadere è sicuramente maggiore rispetto a un cane di 5 kg, questo non c'è dubbio. Quindi diciamo che la cosa migliore sarebbe che chi decide, chi desidera adottare un cane, qualunque razza, sarebbe molto utile che si rivolgesse a un medico veterinario, meglio se esperto in comportamento, prima di effettuare una scelta basata sull'emozione, che bello questo cane, mi piace, oppure su internet, perché la razza ha un peso, ma il peso è legato alla taglia del cane, all'indole del cane, alla reattività del cane, al tempo che gli si deve dedicare. Un rapporto accusa con i trucchi che sono stati effettuati per nascondere le reali emissioni di diesel, 1200 morti evitabili solamente in Italia. Il surplus di emissioni di veicoli diesel rispetto a quanto dichiarato dalle case automobilistiche ha causato in Italia 1250 morti all'anno. A quantificare le conseguenze del Dieselgate, due studi internazionali. Stando agli esperti, sono 425.000 le morti annue riconducibili all'inquinamento dell'aria nei 28 paesi dell'Unione Europea, più Norvegia e Svizzera. Poco meno di 10.000 decessi sono attribuibili alle emissioni di ossidi di azoto dei motori diesel e di questi 4.560 collegabili alle emissioni in eccesso. In base allo studio, l'Italia è il paese con il più alto numero di morti premature riconducibili alle polveri sottili generate dai veicoli diesel, 2.810 all'anno, di cui 1.250 legate al surplus di emissioni. Seguono la Germania e la Francia, mentre dal lato opposto della classifica ci sono Norvegia, Finlandia e Cipro. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Cambiamo decisamente argomento e passiamo alla pagina sportiva, a iniziare dal disastro Ferrari. Non ce la fa, si è girato Sebastian Vettel. Che disastro! Disastro, autoscontro, autogol. Il doppio regalo che la Ferrari ha consegnato alla Mercedes nei primi 200 metri del circuito di Singapore resterà per sempre negli annali della Formula 1. Proprio un bel regalo, perché ora Hamilton, che vola a più 28 a 6 gare dalla fine, diventa quasi imprendibile per Vettel, anche se il capo del reparto corse arriva bene, non getta la spugna. Da parte nostra c'è tutta l'intenzione di lottare fino all'ultima curva dell'ultimo Gran Premio. Belle parole, doverose, ma ormai la frittata è fatta e chissà Marchionne che giramento. Oltre alla gigantesca sfiga, che però ci vede benissimo, resta da chiedersi dove sta lo sbaglio. Che Verstappen faccia il fenomeno non è una novità. In una partenza così importante però ci voleva più saggezza. L'avversario era Hamilton, che adesso ringrazia. «Sono stato benedetto da Dio», dice. Lassù qualcuno lo ama, ma la caccia al titolo non è finita. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo al calcio, appena conclusa la giornata di campionato, giusto ieri. Domani sera già si ricomincia, Carlo Genta, ciao. Ciao Simone, buongiorno a tutti. Domani sera si ricomincia, turno infrasettimanale. Spesso la storia insegna che il turno infrasettimanale è un po' bizzarro, è un po' pazzerello, e quindi magari vedremo qualcosa di più interessante rispetto a quello che abbiamo visto in questa domenica, in cui tutte le grandi hanno vinto, in cui troviamo il nutrito plotone delle favorite in testa alla classifica, in cui i bomber sono andati tutti a segno, da Dybala a Immobile ieri sera, a Mertens, a Kalinic con la prima maglia da titolare nel Milan, doppietta, quasi tripletta per lui con l'Udinese. Insomma, tutte le grandi hanno vinto, le piccole che giocavano con le grandi hanno perso, niente di nuovo sotto il sole, e dunque una giornata direi di transizione questa, in attesa di vedere incontri più probanti. Tra l'altro c'è alle porte, ai primi di ottobre, un interessante Inter-Roma che dirà, Milan-Roma che dirà diverse cose. E quanto a ieri, che dire, Dybala fa magie di nuovo su un campo di provincia, quello di Reggio Emilia con il Sassuolo, anche se una provinciale illustre. Continuiamo a dire che lo aspettiamo con le sue magie su palcoscenici un po' più grandi e importanti, come poteva essere Barcellona. Il Napoli conferma che la formula dei tre bassotti in questo momento è la più attendibile, la più credibile. Ci si può domandare perché non la si è vista anche in Champions League. La Lazio è una signora squadra, è un'eccellente squadra con grandi giocatori, e Immobile è il capofila di questi. E poi c'è il Milan, che ha cambiato faccia, ha cambiato modulo, che sta facendo prove tecniche di trasmissione. Quelle di ieri hanno funzionato certamente meglio rispetto a quelle di domenica scorsa, con appunto Nicola Kalinic che alla prima da titolare in rossonero firma una doppietta 2-1 sull'Udinese. Simone. Grazie Carlo, ti ritroviamo ovviamente alle 14 in tutti i convocati. A chiudere occupiamoci di TV. I was asleep before. That's how we let it happen. Quello che sentite di sottofondo è il trailer di The Handmaid's Tale, il grande vincitore di questa 69esima edizione degli Emmy Awards, che ogni anno a settembre premiano il meglio della produzione del piccolo schermo. Appunto, si narra di una società totalitaria nella quale le donne fertili vengono private dei diritti e divengono proprietà dello Stato, vengono usate come schiave sessuali per ripopolare un mondo devastato dall'inquinamento. The Handmaid's Tale, in Italia in onda in esclusiva su Teenvision, ha vinto 7 Emmy, tra cui miglior serie drammatica e miglior attrice drammatica per Elizabeth Moss. Delusione invece per l'Italia, The Young Pope, la miniserie di Paolo Sorrentino, è candidata per la migliore fotografia e per il design, non ha vinto alcun premio. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia e sempre 349-238-6666 per i vostri sms, la nostra pagina Facebook dalla quale potete seguire anche la diretta video e commentare anche là. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato dei 5 Stelle, a quanto pare la candidatura a Premier, per la candidatura a Premier al momento corre solamente Di Maio, la scadenza era a mezzogiorno, del caso Orlandi e di un dossier che sta circolando sul caso di Emanuele Orlandi, dell'intervento del Ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan sulle banche, della vicenda Consip, di calcio, di Ferrari e, come avete sentito, anche di TV, di piccolo schermo con gli Emmy che sono stati assegnati nella notte. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia e lo iniziamo andando in Lombardia, Cologno Monzese, con Angelo Rocchi che ne è il sindaco. Sindaco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, spesso da questi microfoni, nei mesi scorsi, e i nostri ascoltatori lo sanno, ci siamo occupati del tema dell'accoglienza dei migranti, parlando spesso con i sindaci per un problema che si sono trovati ad affrontare di qualunque parte politica fossero, ossia il fatto che spesso l'accoglienza veniva organizzata di fatto passando, per così dire, sopra le loro teste. Molti sindaci che abbiamo sentito, anche di sinistra, di centrosinistra, ci hanno detto: attenzione, qua non è il problema di accogliere o non accogliere, è il problema che nel momento nel quale avviene qualcosa sul mio territorio, visto che sono anche un'autorità sanitaria e di protezione civile, cioè su di me ricadono queste competenze, io come sindaco lo devo sapere. Su questa base lei, Rocchi, ha fatto un'ordinanza che però al momento sta incontrando qualche problema da parte del prefetto. Un'ordinanza che prevede che cosa? Che le persone che intendono ospitare migranti debbano comunicarlo preventivamente al comune? Sì, sostanzialmente è quello, anche perché se io ho una bancarella e devo vendere delle collanine, devo chiedere comunque il permesso al comune, essere autorizzato, essere, diciamo, in condizioni di sapere le cose. E mi sembra il minimo, tu vieni a casa mia, fai un'attività e devi, il sindaco che è regolarmente eletto lo deve sapere, che se nel mio comune dovessero arrivare di colpo 83 finti profughi o migranti economici, come li chiama il prefetto, di cui tutti sanno che solo profughi veri, sindaco, non è che profughi veri, almeno il sindaco lo deve sapere. Mi sembra il minimo di rapporto di buon vicinato. Vieni a casa mia, fai un'attività sul territorio, il sindaco regolarmente eletto lo deve sapere. Questo è un po' il vulnus di questa ordinanza qua. Poi se non lo comunichi ti prendi una multa, né più né meno degli altri cittadini. Tra poi i 150 e i 5.000, non mi ricordo, quant'è la multa? La multa noi facciamo dai 500 ai 5.000, per cui ho intenzione di applicarla al massimo. Ah, quindi a 5.000 a prescindere, cioè i vigili avranno l'ordine di dare una multa da 5.000 euro, no? Da 500 a 5.000 euro. Poi vedremo caso per caso, però la discrezionalità dà questa possibilità ai sindaci. Dice il prefetto, mi sembra di aver capito che il prefetto sia piuttosto contraria, no? Il prefetto Morgese a questa ordinanza vostra. Sì, io l'ho anche detto al prefetto, gli ho detto: io sono stato regolarmente eletto dai cittadini e tra l'altro davanti ai cittadini in piazza ho detto che nel caso mi avessero eletto il mio impegno era quello di non ospitare finti profughi o clandestini finché il sindaco e la sua città non avesse risolto le sue criticità sociali e delle tensioni abitative che il mio comune ha. Comune di 50.000 abitanti con già il 18-20% di stranieri con i quali stiamo facendo un'integrazione. Mi scusi Rocchi, quindi l'obiettivo in realtà è di è che non venga più ospitato nessuno, cioè si sta muovendo nell'ambito dei poteri che sono concessi al sindaco e delle sue possibilità, non per dire almeno avvertitemi, ma per dire non li vogliamo, questa è la non sostanza. Non li vogliamo, l'ho già detto. Appena eletto il sindaco Sala di Milano, sono andato in conferenza città metropolitana dei sindaci, sono stato il primo a dire: signore, io non li voglio, punto. Non firmo il protocollo che la prefettura mi sottopone. Sì. E me ne sono andato. Su questo però si è anche assunto le sue responsabilità. A questo punto, nel momento nel quale lei non firma il protocollo, è anche abbastanza normale che le passino sopra la testa, o no? Certo, è normale e probabilmente la legge che hanno fatto è per far sì che chi non firmi, il sindaco che non firma, poi dopo le strutture della prefettura gli vadano addosso a questa non adesione da parte mia, ma è per quello che io e altri sindaci siamo corsi ai ripari. Però Rocchi, mi scusi, quello che dico è questo. Non è una questione di andare addosso o non andare addosso in questo caso, mi sembra che il tema sia questo: si organizza un sistema di accoglienza diffusa, alcuni sindaci decidono di non aderire a questo sistema di accoglienza diffusa. La maggior parte dei sindaci, poi dopo la vendono a prescindere, sindaco, no? Da quel che è, quanti sono, non importa. E quelli che non aderiscono, pazienza, gli passeremo sopra per evitare che poi le persone che sono da accogliere si accumulino in singoli luoghi, vengano portate in singoli luoghi. Insomma, da questo punto di vista mi sembra abbastanza naturale, no? Che nel momento nel quale non c'è collaborazione istituzionale da parte vostra, la prefettura, lo Stato centrale reagisca in questo modo, o no? Probabilmente chi sta sopra di me ovviamente fa un ragionamento per imporre le cose e ci può anche stare, condivisibile o no, però resta il fatto che lor signori sono dei burocrati e nominati, il sottoscritto è stato eletto dai cittadini, quindi io non so se i vari ministri, i vari presidenti del Consiglio attuali sono stati regolarmente eletti dai cittadini, io sono stato eletto dai miei cittadini, io rispondo a loro, non rispondo a questi poteri diversi dai miei. Quindi la differenza è puramente ideologica e politica. Sì. Io faccio la battaglia finché posso, sì, fino all'ultimo minuto, per portare a casa un risultato che è quello che i miei cittadini vogliono. Da tenere presente che un'ordinanza simile alla sua non è stata varata solamente da lei, ma da altri comuni lombardi, cioè ci sono un po' di ordinanze simili che sono state varate, sì, e sono anche queste all'esame ovviamente dell'autorità per valutarne anche la validità e la legalità della cosa. Ve la dovessero annullare questa ordinanza, in 20 secondi, sindaco, che cosa farebbe? Guardi, ci raduneremo con gli altri sindaci e decideremo il da farsi. Cioè, quindi azioni... vi siete coordinati per fare questa ordinanza? Sì, quanti sono i metropolitana? Ci siamo coordinati in una decina di sindaci circa. Io personalmente, insieme al sindaco di Trezzo, di Opera, il sindaco... Sì, adesso non mi faccia l'elenco, però una decina di sindaci. La ringrazio e la devo salutare. Angelo Rocchi, sindaco di Cologno Monzese. Ci risentiamo tra un attimo per i mercati. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli: 5 stelle per la candidatura premier, correrebbe solamente Luigi Di Maio, ancora incertezza. Caso Orlandi, il Vaticano avrebbe pagato per farla allontanare, la Santa Sede smentisce. Banca un punto di svolta, dice il ministro dell'economia Piercarlo Padoan. Calcio si ricomincia già domani sera con Bologna-Inter, la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Borse in diretta. Puntata del lunedì, come sempre un po' più breve, quindi Isabella Tasso, Radio Cuore, il Sole 24 Ore, ti chiedo compattezza, buongiorno, ciao. Buongiorno, sì, le borse sono tutte positive, Milano fa più 0,5%, Parigi e Francoforte guadagnano 1,02%, così come Londra. Milano aggiorna i massimi dal dicembre 2015 ed è trainata dai titoli finanziari, da Telecom che fa più 2,6% e da Fiat Chrysler perché fa più 1,5%. Le telecom beneficiano di nuove voci su uno scorporo della rete, bene anche Popolare Emilia Romagna più 1,9%, Ferrari più 1,8% e Iux che guadagna l'1,6%. Leonardo guadagna l'1,5% e corre dopo il maxi ordine di Typhoon da parte del governo del Qatar che spinge tutto il settore della difesa in Europa. Brillante anche Saipem più 1,4%. Eni cede il 2% e paga lo stacco dell'acconto cedola. Grazie Isabella, buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno. E adesso torniamo ad occuparci della chikungunya, ossia questo morbo che si è diffuso attraverso le zanzare nella zona di Roma, che ha portato al blocco delle donazioni di sangue per oltre 1 milione di persone. Oggi si svolgerà un vertice con la Regione Lazio e col presidente Zingaretti. Nelle scorse ore l'assessore all'ambiente del Comune di Roma, Pinuccia Montanari, ha detto, insomma, in qualche modo piantatela di prendere vela con Roma, perché il focolaio in realtà è ad Anzio. Siamo in linea col sindaco di Anzio, Luciano Bruschini. Buongiorno sindaco, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a lei. Beh, in effetti le cose sono partite da là, sono partite da voi, come vanno? Beh, le cose sono partite da qui, si dice che siano partite da qui, ma penso che qualcuno qui ce l'abbia portata, no? Perché non è che noi qui abbiamo delle aree paludosi, non so come sviluppi questa febbre. Siccome ad Anzio girano 500.000 persone durante il periodo estivo, io non posso mica escludere che qualcuno sia venuto qui già infetto e che l'abbia portata, non possiamo escludere nessuno, come facciamo a dire il contrario? Sì. Né voglio sottovalutare il problema, certo. Ma però che io sento dire da parte dell'assessore del Comune di Roma frasi poco non degne di chi svolge quell'attività, io direi all'assessore si preoccupasse di Roma, che c'ha tanti problemi per conto suo e stanno sotto gli occhi di tutti, quindi si preoccupasse di Roma. Per quanto mi riguarda, per quanto ci riguarda, oggi io ho una riunione in regione con la ASL, l'RMHSE e con la Regione Lazio. Le posso garantire che abbiamo ricevuto i complimenti per l'attività che abbiamo svolto sempre. Che si sappia, che qualcuno lo mette anche in dubbio, che io dico che è certo, lo posso dimostrare, che il Comune di Anzio fa sempre la disinfestazione tutti gli anni. Quindi disinfestazione fatta, dite voi, sindaco. Da giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre, tutti gli anni. In questo caso specifico io ho ricevuto notizia di questo problema il venerdì di 2 settimane fa alle 9 di mattina, già la sera a mezzanotte abbiamo disinfestato l'area che ci è stata indicata, l'abbiamo rifatto sul giorno dopo e la stiamo ripetendo da tutti i giorni in tutta la città. Mi dice una cosa, sindaco, mi dice una cosa, l'assessore Montanari, che abbiamo avuto ospite tra l'altro nella puntata di venerdì della nostra trasmissione, diceva anche noi l'abbiamo fatta la disinfestazione, abbiamo iniziato ad aprile e abbiamo utilizzato soprattutto all'inizio un metodo biologico. Voi che metodo utilizzate per la disinfestazione? Tra l'altro oggi lo porto, anche i prodotti che noi usiamo li porto in regione. Cioè li porta Zingaretti, arriva con i flaconi da Zingaretti? Non porto i flaconi, porto le caratteristiche, quello sì, che certo, contengono certo. I prodotti, e le posso dire che sono efficientissimi, che funzionano, perché sono poi la ditta che ci fa questo servizio a noi, è in diretto contatto col Ministero della Sanità, è anche ben conosciuta da parte del Ministero della Sanità e quindi usa prodotti che funzionano. Ma questo problema noi l'abbiamo sempre fatta la disinfestazione nella città di Anzio. Io sento qualcuno che dice no, io non l'ho visto mai. È chiaro, noi possiamo i 2-3 di notte, noi possiamo suonare a casa, ci stiamo passando, certo. Lo facciamo di notte, cioè, non è che lo fai alle 10 del mattino quando la gente è in giro, noi facciamo la disinfestazione, questo la facciamo la notte verso le 2-3 di notte. Sindaco, i casi ad Anzio quanti sono stati alla fine, così ci aiuta anche a far chiarezza? Casi, l'ultimo incontro che io ho avuto con l'ospedale, col direttore sanitario, erano 4. Oggi mi si dice, leggo, che sono circa 54 che in via d'accertamento. È possibile siano 54? Io adesso non do un numero certo, non glielo so dare. I casi accertati erano 4, 5 giorni fa, che oggi probabilmente possono essere anche 50. Però questo è quello che leggo sui giornali. Sui giornali, non ho ancora informazioni precise. Informazioni precise non le ho. Oggi incontrerò il direttore generale della ASL, in regione, sì, che sarà presente anche il direttore generale della ASL. E farete un punto della situazione. La ringrazio, grazie a Luciano Bruschini, sindaco di Anzio. Buona giornata, buon lavoro, grazie, naturalmente. Buongiorno.